Tempo di sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio, mezz'ora finale di alto livello dell'Inter, propiziata da un gol di Milito, davvero, davvero campione, davvero grande attaccante. Mi ha ricordato, forse per la suggestione di averci parlato ieri, lo ricorderete, mi ha ricordato il primo Mazzola, con la differenza che Milito è un po' più maturo. Quello a cui bastava, quando Mazzola ancora giocava centravanti e gli bastava un metro e mezzo circa dalle parti del limite dell'area per essere chirurgico con quei rasoterra di destro che trovano gli angolini. E da lì si è vista una eccellente Inter che avrebbe certamente meritato molto di più, a differenza di quella della prima ora, insomma, che non dico fosse il rimborso del biglietto, ma certamente per la mediocrità degli avversari e per quello che l'Inter non riusciva assolutamente a fare, nonostante avversari che avevano sì una grande stazza fisica, sì, erano praticamente insuperabili sui palloni alti, ma poi ogni volta che il pallone gli toccava giocarlo, gli toccava metterlo giù e provare a lavorarlo col piede, beh, denotavano o sbaglio, caro Fabio Tavelli? C'è un... Sì, scusate. Sì, adesso sì. Oh, ok, buongiorno a tutti, se non avete sentito prima. No, io credo che nel primo tempo l'Inter si sia un po' adeguata al livello basso dell'avversario, cioè abbia affrontato una gara sotto ritmo, in maniera anche abbastanza approssimativa in certe situazioni. Sneijder andava a una velocità diversa rispetto agli altri attaccanti e tutta quella potenza di fuoco che Mourinho aveva inserito, e che era più o meno la stessa di Stamford Bridge, era stata quasi sprecata. Infatti credo che l'Inter... Fabio, ho letto stamane sul Corriere, a proposito di quello che dici tu, una notazione molto interessante di Mario Sconcerti. Dice: si è capito ieri sera non solo che Sneijder ogni tanto è troppo veloce per i suoi compagni, ma si è capito, veloce sia di pensiero che poi di piede, ma si è capito anche perché il Real l'ha lasciato andare, perché nel gioco compassato che fanno al Bernabeu uno così era troppo avanti per loro. Sì, è anche vero che quando giochi tutta compassata come squadra, poi vero fino a un certo punto, perché Cristiano Ronaldo e Kakà, a volte, ma magari il Kakà rossonero più che quello madridista, hanno delle accelerazioni pazzesche. Sì, ma individuali, mentre invece Sneijder le ha per gli altri, che fanno fatica a collegarsi. Sì, sì, a me piace molto la velocità del pensiero di Sneijder, oltre che all'esecuzione. A volte è fin troppo veloce anche per poi quello che lui riesce a realizzare, però è un giocatore straordinario. Io sinceramente pensavo fosse un eccellente giocatore, ma così importante, così decisivo per l'Inter non me lo figuravo. Lui è veramente un giocatore decisivo per questa stagione. Ma in ogni caso, poi l'Inter nel secondo tempo, senza cambiare uomini, ha cambiato registro, perché l'Inter è molto più forte del CSKA di Mosca, e ha ragione Mourinho, l'Inter avrebbe potuto vincere tranquillamente 3-0, Julio Cesar ha fatto una sola parata. Sì. E quindi da un lato c'è la soddisfazione per l'Inter di non aver preso gol, di avere incamerato un vantaggio, di costringere il CSKA comunque ad attaccare un po' a Mosca. Il piccolo grande rammarico è di non averla chiusa prima, perché io credo che legittimamente l'Inter la qualificazione avrebbe già potuto timbrarla ieri sera. Che possibilità, che margini ci sono di metamorfosi per il CSKA sul suo campo, al di là del sintetico, al di là del fatto che ci proveranno, perché è ovvio che il fattore campo... Però io ho visto ieri sera davvero ho visto un numero di piedi di gesso, come si diceva un tempo, assolutamente impressionante. Buon pomeriggio a Vittoria, anche, che sì, mi sembra... vi saluta anche lei. Meno male, la piccola Vittoria è un valore aggiunto indiscutibile. E che margini ci sono, secondo te, di metamorfosi positiva di questi russi? Ma guarda, pochi dal punto di vista qualitativo, nel senso che il CSKA comunque, anche quando ha giocato in maniera diversa, ha giocato sempre su questi standard. La verità è che il margine del CSKA può diventare interessante solo se l'Inter sbaglia la partita. Cioè, il vantaggio di giocare in trasferta e in ritorno con un punteggio così, così stretto è che tu puoi anche giocare una partita di contenimento, trovare un gol nell'ultimo quarto d'ora, difenderlo e poi andare ai supplementari o magari tirarla ai rigori. Cioè, questi sono i pericoli dell'Inter. Se parliamo di una partita sul piano qualitativo, sul piano strettamente calcistico, l'Inter non può aver problemi, perché è una squadra ma davvero due o tre volte più forte rispetto al CSKA. Oltretutto, davvero, il CSKA non ha nei piedi troppi gol, anche se poi in campionato ne segna, anche in Champions è riuscita a ribaltare una partita come quella contro il Siviglia, però poi in realtà il Siviglia l'abbiamo visto com'è, perché poi è crollato in campionato e tutto il resto. Cioè, perché il CSKA vada in semifinale sarebbe una cosa clamorosa e che credo l'UEFA in ogni caso non si auguri, da un punto di vista dell'impatto, intendiamoci, non di altre cose. Bisogna che l'Inter le dia una grandissima mano, cioè l'Inter deve completamente sbagliare la partita e sinceramente non penso accadrà. Sì, insomma, una squadra ai quarti di finale che il terzo passaggio di fila non riesce a farlo in 90 minuti, pur non cercando rifiniture di chissà quale livello, ma semplicemente provando a far correre la palla, è davvero abbastanza imbarazzante. Scrive Roberto Dalodi: ho visto invece Barcellona-Arsenal, ma che spettacolo di calcio. Beh, non inedito se è per quello, ma è sempre una conferma piacevole, direi. No, tutti ci aspettavamo un grande spettacolo. Tutti ci aspettavamo un grande spettacolo, il grande spettacolo c'è stato. I primi 18-20 minuti del Barcellona sono stati clamorosi. Però vedi, quei 18 minuti, diciamo 20 minuti, il Barcellona davvero è sceso dal paradiso e ha dettato le regole del calcio, si è giocato in una maniera clamorosa, però non ha segnato e avrebbe anche potuto andare sotto nel primo tempo, perché poi comunque l'Arsenal una bella palla gol ce l'ha avuta e poi ha avuto bisogno di un aiuto di Almunia nel secondo tempo, perché quell'uscita, mezza uscita, non uscita sciagurata di Almunia ha dato a Ibrahimovic la possibilità di segnare. E comunque la partita è stata fantastica, perché ha una velocità che pochissime altre squadre, forse nessun'altra squadra può tenere. Queste squadre facevano girare la palla in maniera davvero imbarazzante per altri spettacoli che arrivavano da altri campi, perché comunque non solo il primo tempo di Inter CSK è stato un po' sottotono, sotto ritmo, insomma, non si è visto granché nemmeno a Monaco, si è vista una grande partita a Lione. Secondo me il primo tempo di Lione è stato veramente addirittura sorprendente. Io onestamente mi aspettavo che Lione-Bordeaux finisse 0-0, perché in Francia tante volte questo accade. Sì. Invece le due squadre hanno giocato davvero con giù la maschera e hanno regalato una grande serata. Se la sono giocata splendidamente. Confinando ancora nella tenuta di vittoria per qualche minuto, ho davanti dei bollettini medici contrastanti tra loro, e cioè Rooney è appena uscita la notizia, è una lieve distorsione, probabilmente è interessato il legamento, ma insomma la distorsione è lieve e si parla davvero di poche o pochissime settimane. Fabregas invece ha rivelato, non ci sono ancora diagnosi e prognosi esatte, ma ha rivelato lui stesso di temere una frattura probabilmente al perone o nei dintorni, perché, e lo dice lui stesso, gli è rimasta la gamba, sull'episodio del rigore di Puyol, con rigore e poi espulsione, gli è rimasta la gamba, come dire, pizzicata tra quelle di Puyol e sono caduti insieme e ha questo timore. Allora è chiaro che, mentre per Rooney se non altro il sospiro e sollievo lo tira capello, anche se non Ferguson, per Fabregas il problema per Del Bosque potrebbe essere molto grave anche in prospettiva mondiale. Ma io ho letto Marca un quarto d'ora fa e lui teme davvero di aver finito qui la stagione. È ovvio che ne sapremo di più in questi giorni. Io sinceramente, quando gli ho visto poi calciare il rigore e l'ho visto zoppicare dopo, pensavo si fosse stirato sul rigore o quantomeno che avesse avuto una contrattura. Poi in realtà la dinamica dell'intervento di Puyol è davvero stranissima, perché praticamente lui gli fa una sorta di forbice mentre Fabregas sta per calciare. Credo che comunque sia, cioè non ci siano dubbi sulla decisione presa dall'arbitro. No, certo. Quantomeno nella segnazione del calcio di rigore. Già Fabregas non avrebbe giocato il ritorno, questa era una buona notizia per il Barcellona. La notizia è orribile per l'Arsenal nel finale di stagione, perché l'Arsenal è ancora in corsa, è a 4 punti dalla prima per il campionato, ma soprattutto è uno spettro pesante per la Spagna, che parte con i favori del pronostico, ma senza un giocatore come Fabregas rischia davvero di vedersi smontare un castello che sembrava perfetto. Pessima notizia per Arsenal e Spagna, non c'è dubbio. Subito dopo l'intervallo proveremo a proiettare i ritorni anche alla luce di quello che accadrà nel fine settimana di campionato. Quindi sentiamo come va sulle strade. Dei ritorni di Coppa torneremo a parlare sia lunedì, giorno di Pasquetta e vigilia di CSKA Inter e Barcellona Arsenal, sia poi martedì nell'imminenza stessa delle partite. Adesso Fabio, io, prima di lasciare la linea agli interventi degli ascoltatori che stanno cominciando a premere, vorrei vedere un pochino il panorama europeo di questo fine settimana, perché almeno in Inghilterra e in Germania è assolutamente di vertice e certamente qualcosina peserà poi sui ritorni di Coppa. Ma io credo che questo sia un discorso che prima o poi la UEFA dovrà fare nell'organizzazione della Champions League, perché non sfugge a nessuno che la sfida tra Manchester United e Chelsea, incastrata in una gara di ritorno di un quarto di finale di Champions, sia un qualcosa di problematico. È evidente che i campionati possono tener conto e devono tener conto della Champions League senza esagerare. I campionati vengono stilati a luglio, quindi non puoi magari pensare o sospettare che ci sia una squadra che possa fare un campionato di vertice e poi magari in realtà non lo fa, perché però Manchester-Chelsea, diciamo che piazzata nella settimana nella quale si gioca un quarto di finale di Champions, nella quale tra l'altro non c'è il solito cuscinetto di una settimana ma si gioca in 8 giorni, credo che siamo ai limiti della cattiveria, no? Perfettamente della d'accordo, perfettamente al di là d'accordo. Che poi nessuno può prevedere che Rooney si faccia male o così, ma io credo che l'Inter sia contenta di giocare contro il Bologna e di non avere la Roma questa settimana piuttosto che l'ha avuta la settimana scorsa. Uno potrebbe sempre dire che anche averla avuta la settimana scorsa non è stato bellissimo. E non è detto che quel primo tempo, quei primi 60 minuti non fossero ancora in parte conseguenza della delusione dell'Olimpico e della fatica. È possibile ed è possibile tutto. A me impressiona questo. Cioè, l'Arsenal gioca col Wolverhampton che... da affrontare all'Emirates mi sembra una cosa decisamente abbordabile. Il Barcellona gioca in casa con l'Athletic Bilbao, non è una partita facile perché l'Athletic tra l'altro ha giocato in posticipo lunedì sera, ha vinto 4-3 e sta sognando l'Europa, quindi non sarà una partita facilissima. Per cui io onestamente sarebbe una riflessione che mi aspetto facciano i vertici europei, cioè soprattutto quando ci sono i quarti di finale e le semifinali, se la decisione è di farle giocare in 8 giorni, e secondo me è positivo questo, non dico di fermare i campionati perché non ce la si fa mai, questo poi è un anno mondiale, però dare a queste squadre una sorta di non dico di wild card, ma un qualcosa per darle la possibilità di non affrontare almeno una rivale scudetto. Ecco, diciamo che in quella settimana potrebbero affrontare una neopromossa, tanto voglio dire il calendario si fa a luglio, cosa ne sai tu di quello che succede a marzo dell'anno successivo? Potrebbe essere un'idea. Qualcosina potrebbero studiare. In sintesi mi pare che, ecco, allora, dicevo Inghilterra e Germania, i due confronti diretti per il titolo. Esatto, oltretutto grande polemica tra Schalke e Bayern, perché i dirigenti del Bayern sostengono che quelli dello Schalke stiano bagnando apposta il campo, lo stiano facendo diventare una sorta di campo di patate per impedire al Bayern di giocare la palla a terra, insomma, schermaglie. Sì. Trascurabili, insomma, non credo che, tra l'altro lo stadio di Gelsenkirchen è uno dei migliori del mondo, per cui insomma lo stadio è anche il campo, per cui, insomma, quindi, mi sembra un segno di discreta debolezza da parte della dirigenza del Bayern di Monaco. Schalke Bayern e all'Old Trafford Manchester Chelsea senza Rooney. Eh sì, senza Rooney, con un Chelsea che si è ripreso dalla batosta di Champions e che credo a questo punto, forte anche del fatto che il Manchester dovrà avere comunque anche un po' la testa sulla partita contro il Bayern di Monaco, il Chelsea abbia davvero una grande occasione. Con l'Arsenal spettatore e Arsenal tifoso del pareggio, della X, perché certo, l'Arsenal è a 4 punti, credo che batterà il Wolverhampton e andrà e dovrebbe riuscire a guadagnare, potrebbe riuscire a guadagnare su tutte e due. Un bacetto Pasquale da tutti alla piccola vittoria. Grazie, insomma, perdonatela se si è manifestata. Perdonatela, però devo dire, Gigi, la grande popolarità della quale gode il tuo programma è testimoniata dal fatto che mentre andava via libera ho ricevuto parecchi messaggi di persone che stanno ascoltando il programma e che salutavano Vittorio. Dimostrazione ulteriore di affetto nei confronti del tuo programma. Salutavano festosamente Vittorio, mi auguro, perché questo è stato il vero valore aggiunto di oggi. Grazie. Buona Fabio. Buona giornata a tutti. Speriamo di sentirla anche a Pasquetta, Vittorio. Sarà con me, sarà molto probabile, sì. Molto bene. Dunque, chiudiamo allora questo collegamento che, come avete capito, non era esattamente con la redazione di Sky Sport 24, dove Fabio Tavelli lavora, ma era leggermente più privato. Ci sono molti messaggi e molti ascoltatori già in linea. Allora, le telefonate di oggi le passiamo in questo adesso, cioè in questa fase, e poi Non subito dopo l'intervallo dei mercati, perché lì avremo una parentesi molto interessante con Marco Beninazzo del Sole 24 Ore. Torneranno subito dopo. Qualche messaggio. A proposito di calendari, in Spagna c'è, scrive un ascoltatore, Real Barcellona subito la settimana dopo il ritorno. È verissimo, Real Barcellona è previsto sabato sera ed è un altro argomento che rafforza la tesi di Tavelli, e cioè in questo calcio così perfezionista, e cioè in teoria, una riflessione su calendari forse diversamente organizzabili si potrebbe cominciare a fare. Guardate che Fabregas, scrive Angelo, spesso con la Spagna va in panchina, immaginatevi gli altri. È verissimo, Fabregas non è un titolare fisso del centrocampo spagnolo, però è la primissima delle alternative, e comunque 2 su 3 tra Xavi, Fabregas e Iniesta giocano sempre. Non averne a disposizione uno, se davvero sarà confermata questa autodiagnosi che purtroppo Fabregas si è fatto, insomma, sposta un pochino, non dico le quotazioni dei bookmaker, ma quasi. Gianni ha chiamato da Genova, buongiorno. Buongiorno, dottor Granzini, e buona Pasqua innanzitutto. Dica. Le volevo dire una cosa, non pensa che ieri sera l'Inter, sono interista, premetto, sì. Non pensa che ieri sera l'Inter avrebbe fatto molto, molto, diciamo, come posso dire, in campo Balotelli con le sue bordate, con i suoi scatti insieme a, non so, hanno tirato in porta, sì, hanno fatto un sacco di tiri, però non lo so, per conto mio Balotelli forse ieri poteva in un certo qual modo risolvere anche un po' il risultato. Io credo che con il miglior Balotelli, con il miglior Balotelli l'Inter avrebbe avuto meno problemi nel primo tempo, nel senso che tutto era un po' monocorde, a nessuno riusciva la giocata, tolto a Sneijder, ma abbiamo detto prima, no, che le sue ispirazioni non erano addirittura troppo anticipate o troppo veloci per i ritmi dei compagni, e quelle sono le partite che Balotelli riesce a spaccare, o comunque che è riuscito in passato ogni tanto a spaccare. Poi nel secondo tempo ci ha pensato Milito e lì il problema si è un po'. Comunque la novità di giornata è che il caso Balotelli sembra vicino a una soluzione. Leggo da un'agenzia che in mattinata ha avuto un incontro di chiarimento con Mourinho da Piano Gentile, e a questo punto potrebbe anche essere inserito domani tra i convocati per Inter Bologna. Roberto ha chiamato dalla provincia di Foggia, buongiorno. Salve Garanzini, non vorrei discostarmi molto dagli attuali argomenti, però sfogliando un po' il quotidiano Tutto Sport, volevo invitarvi a concentrare la vostra attenzione, un po' di tutti quanti, anche dei radioascoltatori, sulla pagina 2 del giornale, che per il secondo giorno consecutivo sta riassumando un po' il caso Calciopoli, però in questo caso la seconda pagina, ecco, è abbastanza interessante nel numero di oggi, dove veramente, vabbè, a parlare c'è un'intervista a Maurillo Prioreschi, l'avvocato difensore di Luciano Moggi, che premetto anche in questo caso non mi è simpatico malgrado io sia juventino, però ci sono scenari secondo me che futuri abbastanza inquietanti per molte delle società che all'epoca non furono coinvolte, vedi Inter, Milan, non lo so, volevo fare ecco questa precisazione visto che... Questo appello in pratica... Sì, ma io giro volentieri l'appello e lo personalizzo, se crede. Io ho smesso di leggere Tutto Sport negli anni 70, quando dal grande quotidiano sportivo che era, con una quantità di firme davvero impressionante e a parer mio allora persino superiore, se non assolutamente competitivo con la Gazzetta dello Sport, ma stiamo parlando di giganti, stiamo parlando di nomi di Tutto Sport, di firme di Tutto Sport che si chiamavano Giglio Panza, si chiamavano Renato Morino, si chiamavano Giampaolo Ormezzano e tanti altri ancora, si chiamavano Antonio Ghirelli. Poi un po' alla volta è diventato un organ house. Io in questi anni e in tempi recenti sinceramente non mi sento di condividere il suo appello e di suggerire certe letture, tantomeno ai tifosi della Juventus, che mi pare debbano anche, ma in buona misura a Tutto Sport, la cacciata lo scorso anno di un allenatore non proprio tra gli ultimi della pista, che si chiama Ranieri, come poi si è dimostrato, e in precedenza anche quella di Deschamps. Grazie Roberto. Alessandro, provincia di Modena, buongiorno. Sì, buongiorno a tutti. allora no, sono rimasto ancora un po' così per sentire che della gente legge ancora Sport. Io sono anche juventino, tra l'altro. No, questo no, non esageriamo, c'è libertà di lettura, ci mancherebbe altro, però se un ascoltatore mi chiede di caldeggiare una lettura che io non condivido, anzi che conoscendola evito... Evidentemente ciascuno può rispondere alle sue opinioni, l'ascoltatore la sua, io della mia e lei a sua volta di, sì, della sua altra. Dica. No, niente, ho visto una partita veramente bella, ho visto il calcio con la C maiuscola e ovviamente mi riferisco alla partita d'Arsenal contro Barcellona, non a quella dell'Inter. Infatti io ho iniziato a guardare un po' l'Inter mentre mi stavo un po' addormentando, ho cambiato canale, ho visto una partita spettacolare, mi sono accorto. Dopo appunto qui la curiosità è questa, che appunto cosa ne pensa. Chiaramente vabbè, il Barcellona con un organico così forte, un gioco così bello, non lo scopriamo adesso. Però l'Arsenal, che ha un organico un po' molto molto inferiore rispetto a questi campioni del Barcellona, mi sembra proprio di vedere la mano di un tecnico veramente veramente forte, un tecnico straordinario che è Wenger, dove appunto queste giocate velocissime dell'Arsenal portano anche dei giocatori, diciamo. Non lo so, Alessandro, infatti guardi, l'Arsenal è un po' il Barcellona del calcio inglese, nel senso che da anni, grazie, attraverso Wenger, da anni sta praticando una filosofia di gioco, la attua sin dalle giovanili, e quindi i giocatori poi, che tra l'altro in età molto giovane arrivano in prima squadra, hanno comunque già quella cifra di gioco incorporata, mi verrebbe da dire. Poi esistono tanti modi di giocare al calcio, ne esistono anche di più efficaci e di più concreti forse rispetto a quello dell'Arsenal è certamente uno di quelli divertenti, è una specie di derby di qualità quello che si gioca in questi giorni tra Arsenal e Barcellona. Aggiornamento dei mercati. Ci ha raggiunto Marco Bellinazzo del Sole 24 Ore. Marco, buongiorno. Buon pomeriggio. Allora, una chiave di lettura alternativa, se vogliamo, di questa non di tutta la Champions, ma di una sfida in particolare. Bayern-Manchester United è un quarto di finale in cui c'è una di fronte all'altra, una squadra che non ha debiti, contro una che ne vanta circa 800 milioni. Allora, visto che c'è stato un rilancio in questi giorni di fair play finanziario e di criteri addirittura di stesura, beh, mi sembra quanto mai opportuna. Sì, Van Gaal ha attaccato quelli del Manchester prima dell'incontro, rimarcando proprio la differenza di situazione patrimoniale, che significa ovviamente possibilità di ingaggiare giocatori più forti, facendo presente come appunto l'ultimo bilancio del Bayern si era chiuso con un lieve attivo addirittura, mentre il bilancio del Manchester è caricato di debiti, come abbiamo più volte raccontato. È stato anche lo spunto per i club, appunto, per trovare un nuovo accordo sul fair play finanziario, la politica di rigore di bilancio che Platini sta promuovendo da alcuni mesi ormai. Qualche settimana fa proprio l'amministratore delegato del Bayern, Karl-Heinz Rummenigge, aveva fatto paventare un possibile slittamento, come ricorderai, dal 2012 al 2015. Certo. Invece i club hanno trovato l'altro giorno un accordo a Lione, che dovrà essere ratificato il 19 maggio dal board della UEFA, sulla possibilità di applicare dal 2012 le regole sul fair play finanziario, che sostanzialmente impongono ai club di avere, diciamo, entrate equivalenti alle uscite, evitando i casi Abramovic che stacca, insomma, sì, assegno da 500 milioni per coprire i debiti. Già dal 2012 quindi potrebbero essere applicate queste regole, però con alcuni criteri che tenderanno un po' a mitigare l'applicazione delle regole economiche, insomma. Quindi sì, l'entrata in vigore, ma non con la severità di cui si era parlato all'inizio. Sì, per esempio si è chiarito che qualora una società abbia avuto perdite in un anno, ma l'anno prima era inutile, per esempio, si dovrà attenuare le sanzioni, oppure è stato proposto di eliminare il costo dei settori giovanili da quello che è il monte delle uscite. Per esempio si è detto anche che si dovrà considerare la possibilità che appunto crisi economiche generali possano incidere, per esempio, sulle sponsorizzazioni delle squadre, oppure che cambiamenti nell'ambito della stagione, pensiamo a quante squadre hanno rose di 20, 30 o più calciatori, con relativi stipendi che poi magari escono dalla Champions, in quel caso dovrebbe essere facilitata la possibilità di dare in prestito i giocatori in eccedenza. Insomma, tutta una serie di criteri che dovrebbero aiutare le società a rimettere a posto i conti e a competere in maniera, diciamo, più paritaria nell'ambito delle manifestazioni sportive. Certo. Piccolissima parentesi, alcuni ascoltatori, Valerio, Francesco da Modena, ma parecchi altri ancora, dicono guardi che di intercettazioni e di novità parla oggi anche la stampa. Infatti ho letto sulla stampa e immagino, ho letto con curiosità e con attenzione, non ho letto cose clamorose, ma ho letto cose che potrebbero essere suscettibili di sviluppi, e se ci saranno sviluppi se ne parlerà. Altro è leggere la stampa e, ripeto, altro è essere informati da Tutto Sport. Scusa, torniamo all'economia, perché non credo di averti interrotto, ho fatto soltanto questa parentesi perché insomma sono abituato a seguire il display mentre ascolto e quindi a vedere qual è il su che cosa stanno intervenendo gli amici che scrivono in tempo reale. Abbiamo questo argomento, d'accordo. È molto collegato a questo argomento l'ennesima proposta di un Platini, insomma, abbastanza effervescente in materia, no? da qualche mese o forse anno a questa parte, su questa possibilità di creare, come dire, un azionariato popolare, ma non maggioritario all'interno di società. Sì, in realtà è una proposta che è nata in Gran Bretagna e che non trova d'accordo ovviamente i vertici delle varie squadre di Premier League, tanto per cominciare. Cioè riservare una quota intorno al 20-25% di quote, di azioni, delle società ai tifosi. Platini ha sposato questa proposta, ma a mio avviso più per quanto riguarda gli obiettivi o il contesto in cui si scrive, cioè quello di favorire un recupero della identità nazionale dei club, piuttosto che sul piano prettamente giuridico ed economico, perché effettivamente è molto, ma molto complicato. O ci sono società tipo, come penso al Real Madrid, al Barcellona, che nascono come strutture associative, quindi prevedono fin dall'inizio una partecipazione popolare, oppure dovrebbero essere le varie società o a quotarsi in borsa, oppure per esempio a cedere sul mercato una parte delle azioni. C'è stata qualche settimana fa la proposta, o un tentativo almeno, chiamiamolo così, di definire un progetto di azionariato popolare per la Roma. In quel caso mi sembra che sia rimasto, o che stia rimanendo almeno sulla carta, sì, proprio per le difficoltà giuridiche che ci sono, insomma. Se non ho capito male, però, in questa proposta di Platini ci sarebbe, attraverso quella parte di azionariato popolare, ci sarebbe il mantenimento di un connotato di identità nazionale, nel senso che l'Inghilterra è stata molto espropriata da questo punto di vista. Glazer sono australiani, mi pare, no? Quelli dello United, Abramovich è russo, americani. Quindi lui dice un 25% comunque di azionariato popolare garantirebbe che quella parte riconferma e mantiene l'identità nazionale. Sì, una sorta di federalismo calcistico, legare il club al territorio. Sicuramente, dicevo, l'obiettivo o il contesto in cui questa proposta va a iscriversi è ampiamente condivisibile, e Platini credo l'abbia accolta e condivisa in quest'ottica. In termini giuridici o più strettamente economici diventa più difficile da realizzare, a meno che non ci sia una volontà delle proprietà, ma ripeto, le proprietà dei club della Premier League si sono dichiarate contrarie, comunque hanno accolto con molto scetticismo questa idea. Certo. Facciamo un piccolo aggiornamento prima di tornare agli amici ascoltatori già collegati sulla tessera del tifoso, e cioè sul fatto che è stato riconfermato e garantito che dal prossimo anno senza non si partirà, sul fatto che qualcuno è autorizzato tuttora un tiro dei due, perché lo scorso anno si era detta la stessissima cosa persino prima di adesso. Lo scorso anno, se non ricordo male, era Capodanno, grosso modo, quando si è detto il campionato non partirà senza te. Adesso siamo a Pasqua e che pensiamo di ciò? Sì, sai che abbiamo avuto sempre idee molto critiche sull'intero impianto della tessera del tifoso, perlomeno per come è stato portato avanti nelle finalità. Anche qui possiamo condividerlo. Sostanzialmente i club nelle ultime settimane si sono detti pronti a far partire la distribuzione di queste tessere con le prossime campagne abbonamenti. Hanno chiesto però garanzie al governo, cioè, e al Ministero dell'Interno, affinché non ci siano più tutte queste limitazioni nella vendita dei biglietti. Di qualche ora fa la protesta dei tifosi della Lazio, per esempio, per la limitazione di accesso ai soli abbonati per la prossima partita Lazio-Napoli. Sì, tieni conto, scusami, ti interrompo solo per aggiornare che ci sono pesanti misure per Udinese Juventus di sabato, che Roma-Atalanta dell'11 aprile è già stata vietata ai tifosi residenti in Lombardia. Questo, insomma, per confermare che... Questo trend che le società vogliono assolutamente invertire. Chiaramente si crea già un profilo problematico. Il Ministero non può garantire a priori che non saranno più disposte limitazioni per motivi di sicurezza o di ordine pubblico. Le società devono... a questo punto sono obbligate, insomma, a far partire il progetto dalla prossima stagione. Hanno preso un impegno formale, la Lega ha preso un impegno formale con il Ministero. È chiaro che se sarà attuato, così come è stato promesso, il meccanismo della tessera del tifoso, dovrebbero essere ridotti al minimo i rischi di violenza o di incidenti nelle partite più complicate, e questo dovrebbe portare automaticamente a una diminuzione di queste restrizioni. A mio avviso anche l'anno prossimo, almeno per le prime giornate, avremo ancora questo tipo di limitazioni, le società dovranno ancora patire una diminuzione dei biglietti venduti. In attesa che si perfezioni questo meccanismo, perché i tempi tecnici a parer tuo non ci sono, e poi c'è questo quadro di fondo, no, che hai dipinto. Sicuramente, diciamo, le tifoserie ultra non sono favorevoli a questa novità, per cui sicuramente non faciliteranno le cose alle società. Marco, io ti ringrazio molto per questo intervento, per queste puntualizzazioni. Credo ci sia lo spazio per un ascoltatore prima di arrivare agli aggiornamenti del traffico, che in un giovedì di Pasqua cominciano sempre verso quest'ora a essere piuttosto preziosi per chi è in viaggio. Luca, Torino, buongiorno. Sì, buongiorno, signor Garanzini. Dica. Rimango sempre a bocca aperta quando sento la vostra trasmissione per pacatezza, educazione e competenza. Poi, posto che io sto ancora aspettando le decisioni del giudice sportivo riguardo a Juventus-Lazio, quando ci fu un ferimento di quella gente, tutte queste loro rovine. Poi questi spostamenti quest'anno di calendari, la giornata di campionato settimanale a marzo, non mi ricordo in altri anni che ci fosse, cioè tutte queste variazioni, tutte queste cose poco chiare a livello regolamentare. Non dico che a me, tifoso dell'Inter, può saltare qualcosa in testa, però insomma una piccola mosca può venire, ecco, al naso. Sì, non lo so. Anche perché poi questi spostamenti ogni tanto producono delle coincidenze incredibili e dannose. Mi pare che Fiorentina-Inter di Coppa Italia sia il 13, che dovrebbe essere un martedì o un mercoledì 13. Mi pare anche che due o tre giorni prima si giochi Fiorentina-Inter, quindi sullo stesso campo di campionato. Ora, cioè, riuscire a rinviare una partita e continuare a rinviarla fino a metterla due o tre giorni dopo la stessa partita che sullo stesso campo si gioca di campionato, beh, insomma, sono quelle coincidenze che, se il calendario originario te le propone o te le impone, ti arrendi. Ma se sei riuscito, a forza di spostamenti incrociati, perché poi riguardavano anche altre squadre, altre società, lei ha capito a chi mi riferisco, insomma, mi pare che ci sia una componente di autolesionismo sinceramente eccessiva. Sentiamo davvero adesso come va sulle strade. Che cosa è accaduto nella storia dello sport il giorno 1 aprile, nella speranza che Nicola Filippone non abbia confezionato un pescetto d'autore? Proviamo a sentire. Sembra ieri. 1 aprile 1998. La Juventus di Lippi mette una seria ipoteca sulla terza finale consecutiva di Champions League. Nella semifinale di andata travolge al Delle Alpi il Monaco per 4-1. Merito della tripletta di un Del Piero in stato di grazia. A 23 anni, Alex diventa così il miglior marcatore bianconero in Coppa dei Campioni, superando Michel Platini. La Juve perderà in finale contro il Real Madrid, ma a Del Piero rimarrà la consolazione di vincere la classifica marcatori con 10 reti. L'ultimo italiano a riuscirci era stato un altro juventino, Paolo Rossi, nella Coppa Campioni 82-83. No, no, non era affatto un pesce d'aprile. Aldo da Milano si domanda se non sia invece un pesce d'aprile questo incontro tra Balotelli e Mourinho, ma a me sembra, cioè è una notizia ANSA, io non credo che l'ANSA si anche perché i pesci d'aprile in genere sono un po' più esasperati, in fondo che Balotelli e Mourinho si incontrino in mattinata ad Appiano Gentile non mi sembra non mi sembra da pesce, insomma, no? Anche perché ieri sera ho notato in televisione una osservazione molto intelligente, molto signorile e veramente di grande classe da parte di Mourinho, quando ai microfoni Rai, che stavano facendo veramente, hanno fatto per tutta la sera, a parer mio, ma questa è un'opinione personalissima, un'opera disgustosa di voyeurismo su Balotelli in tribuna, e quando gli hanno mostrato alla fine in toni di grande esecrazione, che per carità ciascuno, però io non condivido, gli hanno mostrato questa immagine in cui Balotelli rimane, diciamo pure abbastanza freddo, per non dire freddo, al gol di Milito, Mourinho commenta, secondo me molto intelligentemente, dice sì, ma guardate che non c'è niente di speciale, perché Balotelli non esulta quando segna lui, non vedo perché dovrebbe fare questo gran cinema quando segnano gli altri. L'ho trovato veramente da applausi a scena aperta Mourinho. Se poi vogliamo completare il discorso con la Rai, a qualcuno a cui fosse capitato di seguire poco dopo questo programma di Rai 2, sì, di seguire su Rai 3 Linea Notte e di vedere il servizio di Marco Lollobrigida, avrebbe scoperto che ieri sera Arsenal-Barcellona non si è giocato a Londra ma si è giocato al Camp Nou, nonostante l'imbeccata del conduttore, il povero Mannoni, che ha tentato all'inizio e ha ritentato disperatamente dopo di riportare la partita a Barcellona, questo che ha fatto tutto il servizio sulla partita e che era lì per vedersi l'apposta, insomma, ha continuato a informarci che la partita era dal Camp Nou e che quindi sarà un problema serio adesso per il Barcellona, perché dovrà andare, avendo subito due gol in casa, hai problema. Vabbè. Giovanni da Milano, buongiorno. Sì, buongiorno, grazie per l'opportunità. Dottore, volevo fare alcune riflessioni ad alta voce con lei e sentire le sue impressioni. Io sono un vecchio tifoso interista e mi ricordo che i tempi dell'Aristide, dell'Armando, del Tarcisio. Aristide, stiamo parlando di Guarneri, stiamo parlando di Picchi e stiamo parlando di Burnic. Glielo dico perché stiamo parlando di preistoria, purtroppo. Certo. Ai noi. Preistoria va bene, però appunto la preistoria ci ha portato lontano. Il colore giallo e rosso, era un colore che era sconosciuto a Redaelli e a San Siro, oppure rarissimamente si vedeva. Adesso ogni volta che vedo l'Inter così sto in apprensione, perché dico oddio, Montari, Thiago Motta e qualcun altro, il giallo se lo beccano irrimediabilmente, ma proprio in una maniera che non ha senso, soprattutto in una squadra come l'Inter. Primo, altra riflessione, ogni tanto vedo dei giocatori e direi di persone di alto livello qualitativo e spererei tanto anche di comportamento, che si inventano cascatori perché sperano che poi l'arbitro così accondiscenda al loro atteggiamento per portare a casa il gol in qualche maniera o il punto. Ecco, queste cose qui mi piacerebbe che ci fosse un po' più di presa di conoscenza, di coscienza da parte dei giocatori dell'Inter, e se non arrivano loro intervenga la società. Ogni volta che si piglia un giallo una bella multa, ogni volta che si piglia un rosso una bella multa, perché credo che una squadra a quel livello, che poi gira diciamo l'Europa e il mondo, a maggior ragione deve avere un comportamento consono, perché finalmente sì, ieri perché sera ho visto solamente un giallo, ma ho visto un comportamento che mi è piaciuto. Cosa certo. Ne pensa? La penso esattamente come lei, e penso che tra le colpe di Mourinho di quest'anno ci sia stata, in una certa fase della stagione, che è questa, grosso modo, che è cominciata in quella partita con la Sampdoria in particolare, ci sia stato un'eccessiva, io non so, che carica è una parola che detesto, ma insomma ci sia stato un uso eccessivo del nervo, preventivo evidentemente, che ha portato la squadra a essere... a essere eccessivamente tesa e quindi eccessivamente oltre le righe nei comportamenti poi in campo, quindi fallosa, molto molto violenta, comunque molto molto al di là nelle proteste, lo si era già visto con il Milan, ma insomma magari con qualche fondamento in più. E questo penso che sia una responsabilità precisa di chi allena. Io immagino, cioè ogni tanto quando vedo, ma non solo Mourinho, quando vedo i Mazzarri, insomma, quando vedo questi allenatori assolutamente scalmanati a bordo campo, quando vedo gesti come quelli di Manette o queste cose, penso sempre a Lidl e penso a come Lidl non solo insegnava ai ragazzi, cioè come migliorava i ragazzi da un punto di vista qualitativo, grazie all'allenamento, grazie al suo esempio che lui era in grado di fornire direttamente con le qualità che aveva avuto da calciatore, ma anche alla sua superba capacità di gestire un ambiente sdrammatizzando in continuazione e scaricando tensioni anziché aggiungerne, l'esatto contrario di quello che amano fare gli arruffapopolo di oggi, indipendentemente dal loro valore tecnico, che nel caso dei due che ho citato, Mourinho e Mazzarri, è altamente notevole, questo è evidente, ma con questa caratteristica che per me è un limite abbastanza grave. Gennaro, Roma, buongiorno. Buongiorno dottor Garanzini. Dica. Io sono un tifoso interista e volevo fare una... Pronto? Sì, dica. Volevo fare un intervento tecnico, se possibile, sull'utilizzo di Eto'o. Cioè io non ho condiviso Mourinho come utilizza Eto'o e soprattutto ho visto la partita sabato contro la Roma e Eto'o che è rimasto 90 minuti in questo, il giocatore più inutile. Più inutile indubbiamente, credo che chiunque sia d'accordo con me, non so se lei ha visto la partita. A gol di Melito si è visto il movimento dell'attaccante di Melito che quando Gennaro è andato sulla fascia Melito era ancora dietro due giocatori, a parte l'azione irregolare, va bene, quello è un altro discorso. Quando ha messo la palla in mezzo Melito si è trovato al momento opportuno, ha fatto il movimento e si è trovato davanti e ha segnato. E dopo questi movimenti non li fa neanche per prendere la palla. Adesso quello che dico io, l'anno scorso Balotelli nel 4-3-3 che voleva fare inizialmente Mourinho è stato messo fuori per alcune partite perché tattici, diciamo così, che non aveva seguito quello che doveva fare, mentre Eto'o non lo fa mai, secondo me, o almeno Mourinho non gli dice niente perché Eto'o è Eto'o, non lo so. Eto'o, e poi l'ha pure fatto proclama contro il guaglione indisciplinato, quindi cosa vuole che se la prenda con Eto'o. Gennaro, grazie, dobbiamo stringere un pochino perché sennò non riesco ad ascoltare Andrea che è in attesa da un po' di tempo da Milano. Buongiorno. Buongiorno, grazie. Prego. Veloce, volevo fare una precisazione, se non vado errato, con sembra ieri che la Juve ha perso in finale con Real Madrid, ma un gol in fuorigioco di Mijatovic alla faccia dell'era di Moggi, credo. Di 8 centimetri, comunque è vero. Detto. Poi volevo chiedere che secondo me il problema della Juve, se il problema è, parte più che a livello di allenatore, a livello dirigenziale, sì. Perché e parte proprio dall'esclusione di Deschamps, dopo ha fatto un campionato in Serie B. Prima Deschamps e poi Ranieri, avevo una mail qua di questo genere, Raffaele Apostoliti, pensi, si vede che vi siete parlati prima, no, sto scherzando, dice sono stati fatti incomprensibilmente e malamente fuori due signori e due bravi allenatori alle stregue di poveri minus abens, Deschamps e Ranieri. Adesso questi due signori stanno facendo faville nei loro rispettivi campionati. È la purissima verità. Grazie a Pietro Lacorte in regia, grazie a Flavio Suardi e Franco Piantanida in redazione. Buon pomeriggio e in prospettiva buona Pasqua a tutti.